È interessante il fatto che la comunità ebraica milanese, a quanto riferisce Repubblica del 28 novembre, si sia, come si dice, spaccata, aprendo un dibattito, anche abbastanza esplicito, sulle dichiarazioni del suo portavoce, dottor Yasha Raiman, che in una precedente intervista allo stesso giornale aveva accusato in blocco la sinistra italiana ed europea di antisemitismo. L'accusa, per la precisione, era stata quella più specifica di antisionismo, che dovrebbe essere un'altra cosa, ma si sa che nel mondo ebraico, con qualche eccezione, i due concetti tendono a sovrapporsi e che la tendenza a bollare di antisemitismo chiunque supponga in un modo o nell'altro la politica dello Stato di Israele, come fa o dovrebbe fare la sinistra, appunto, e vi è largamente diffusa. Il fatto che oggi pubblicamente se ne discuta è un sintomo confortante, anche per chi come noi in un dibattito del genere non ha ovviamente titoli per intervenire. Personalmente, se volete una mia opinione, temo che il problema finora sia stato clamorosamente mal posto. Che in Italia serpeggi a onta di tutte le ottimistiche dichiarazioni in contrario a una certa vena di antisemitismo, mi sembra purtroppo molto probabile. In fondo, il nostro è il paese in cui prospera e ha sede l'organizzazione che l'antisemitismo ha storicamente inventato, la Chiesa Cattolica, nonché quello in cui sono stati inventati i ghetti, una istituzione che in tutto il mondo, a nostra vergogna, si definisce con un nome italiano. La lotta contro l'antisemitismo si è identificata a lungo con quella per lo Stato laico. E non è un caso se nelle file della parte politica che più si è occupata di questo problema, quella di tradizione radicale e giacobina, i militanti di origine ebraica hanno avuto spesso un ruolo importante. Di fatto la sinistra italiana, almeno fino all'ultima guerra, è stata spesso accusata dai suoi nemici di filoebraismo, anche se si impiegavano allora dei termini politicamente molto meno corretti. Poi le leggi razziali, la guerra, l'olocausto, la nascita dello Stato di Israele, la questione palestinese e tutto il resto hanno sconvolto e forse cambiato tutto. Salvo probabilmente l'identità profonda delle parti in causa. Io vi dirò, non posso fare a meno di pensare che qualsiasi dibattito sull'antisemitismo sia soprattutto per gli uni e per gli altri una riflessione di tipo, diciamo così, identitario. L'accusa di fare il gioco di Hitler per chi a sinistra critica Sharon, o quanto a questo Peres e buona parte dei governanti israeliani dal 1948 a oggi, non è inaccettabile soltanto per il parallelo che esprime, ma perché in sostanza vorrebbe costringere coloro cui è indirizzata a rinunciare a una parte di sé, a quella convinzione laica per cui una cosa è la politica degli stati e dei governi e un'altra la dignità delle varie fedi, opinioni, culture, usanze e credenze diffuse tra i popoli relativi. È in definitiva una specie di ricatto, uno di quegli o con me o contro di me globali che abbiamo altre volte sperimentato e che è sempre, non so, come nel caso del maccartismo, per fare un esempio storico, o quello della politica della fermezza negli anni di piombo, e che sempre sono serviti a ridurre il patrimonio di libertà di coloro cui venivano intimati. Anche a questo out-out, naturalmente, noi non vogliamo piegarci. La pretesa di dire quello che pensiamo di Sharon e dei suoi senza subire definizioni insultanti è anche un dovere che abbiamo verso la tradizione, non vi sembri enfatica, verso la tradizione del libero pensiero. Naturalmente il problema non vale solo per noi. Ciascuno definisce la propria identità con gli elementi che preferisce e deve essere disposto ovviamente ad assumersene le responsabilità relative. È un discorso che potrebbe portarci lontano e non è qui il momento di affrontarlo. Ma proprio perché l'antisemitismo è una delle grandi vergogne dell'umanità, bisognerebbe sforzarsi di evitare di farne uno dei tanti facili ismi che ci si attribuisce l'un l'altro nella polemica quotidiana. Anche le parole si logorano, e che questo termine sia logorato non serve proprio a nessuno.